Lo sai che questa nuova merenda di Susanna è buonissima? Susanna ha scoperto una cascata molto speciale, tutta fatta di latte, che lei trasforma in una crema di formaggino molto morbidissima. E infine Susanna li prende dall'albero del pane e li fa fare snack. Ma Susanna madre, sì? Susanna, la bontà che fa. Pitu pitu! Mi trovi nel banco frigo? Chi torna sui nostri microfoni? Profumati, pulitissimi, in questa regia scintillante. Ma certo. Che è la regia di Radio Wombat. La regia più pulita del pianeta. Più pulita anche di quella di RTL, sicuramente. Sì, sicuro, sicuro. Perché quella di RTL ha la coscienza sporca. Più, infatti. Giusto. Come ti è venuto in mente RTL? Perché quando penso a una radio sento anche il rumorino tridri che faceva RTL. E non lo so, forse perché... No, a me viene in mente Radio DJ perché l'ascolta mia mamma. Hai una mamma molto moderna. No, molto relativamente moderna, solo perché ascolta Radio DJ, tutto il resto no, però ho visto così. E vabbè, ciao Brusca, come stai? Bene Brusca, come cara stai Nina? Tu? Benone direi, sì sai io con questo caldo un pochino accuso. Sfarioni. Sì sì, tutta sfarionata, ma che hai fatto? Che hai fatto di recente? Come mai non ti abbiamo sentito di recente sui microfoni? Non ci siamo Dove sentiti. Siamo state? Siamo state al LAC Meeting, ecco. No, non ecco. Solo, siamo state dappertutto. Dappertutto siamo state, sì, al LAC Meno Meeting. Meno che qui in regia. Esatto. Giovedì scorso è iniziato questo appuntamento annuale di raduno di Acari, ma non quelli della polvere, e è stato molto molto bello, una 4 giorni intensa e molto, come dire, stimolante, e da cui abbiamo anche attinto un pochino di idee per questa puntata. Abbiamo problemi forse in regia? No, ci sentite? In realtà no, sento... No, ma non c'è, penso ci siano problemi. Un po' di frizzo nelle cuffie. Sì, frizza un po' la cuffia, ma si sa. La regia non è perfetta mai e quando lo è non ci piace, quindi ci sentiamo più a nostro agio se qualcosa... Un po' di punk. Storna. Come lo scontrino. Stornare gli scontrini. Ok, bene. Che facciamo? Introduciamo? Sì, introduciamo. Ci addentriamo così nel vivo della trasmissione di stasera e vediamo un po' di farvi capire di cosa parleremo con una bellissima frase di Mark Twain, che io ovviamente mi ricordavo e certo. Ho apportato. La differenza tra la parola giusta e la parola quasi giusta è la differenza tra il fiume e la lucciola. Significa tra il fulmine e la lucciola. Ma ti pare? Io faccio così con le citazioni e con le barzellette. Aspetta, cancello tutto, ritorniamo, rifacciamo tutto da capo. Io ho il potere di rovinare le barzellette e anche le citazioni. Però ti diamo una seconda possibilità. La differenza tra la parola giusta e la parola quasi giusta è la differenza tra il fulmine e la lucciola. Bravissima. Questa è la frase di Mark Twain che Brava. Ci introduce al tema di questa sera, ovvero il vocabolario di genere, o meglio, il vocabolario gender. Ve l'avevamo promesso. Eccolo, e ci siamo. Eccolo qui, servito sul vassoino d'argento. Ah, guarda, ma io prima di partire ti vorrei far sentire A proposito. Vedi, è così, è una giornata così. A proposito di sessismo, ti volevo far sentire un... Perché io... Ecco, brava, per questo. Ti volevo far sentire un nostro amico, che è una cosa divertente, che ho trovato in giro. Molti l'avranno già sentita, ma io queste cose non le spippolo mai, perché dopo un po' mi rompo. E allora invece oggi l'ho trovato, ho detto, vabbè, perché no, visto che ciucciate, non ci sentiamo da 2 settimane, ve la faccio ciucciare. Beh, boh. Indovinate chi è? Ciao Bob, vorremmo costruire una casa nuova per la nostra famiglia, puoi aiutarci? Certo ragazzi, vedrete che con un po' di olio di gomito avrete la vostra casa in 6 mesi. 6 mesi? Ma è un po' tanto. Noi non vogliamo aspettare, c'è bisogno di tempo ragazzi. Voglio la casa subito. Speravamo per l'estate. Allora dovreste chiamare qualche operaio in più. Soldi, sempre soldi vogliono. O uno o l'altro. Bob, sei un diludendo. E ti paghiamo anche. Scandaloso. C'è qualche problema qui? Salvini! Aiutaci, vogliamo una casa nuova, ma Bob non ce la vuole dare. Non è che non ve la voglio dare, è che servono dei mesi. Mesi addirittura, è facile parlare per te che abiti in una casona d'oro. Non è vero. Magari non saranno ricconi come lei, ma pagano onestamente. Sì, ma io a casa mia quando pago. Ciao Bob, vorremmo costruire una casa nuova per la nostra famiglia, puoi aiutarci? Certo ragazzi, vedrete che con un po' di olio di gomito avrete la vostra casa in 6 mesi. 6 mesi? Ma è un po' tanto. Noi non vogliamo aspettare, c'è bisogno di tempo ragazzi. Voglio la casa subito. Speravamo per l'estate. Allora dovreste chiamare qualche operaio in più. Soldi, sempre soldi vogliono. O uno o l'altro. Bob, sei un diludendo. E ti paghiamo anche. Scandaloso. C'è qualche problema qui? Salvini, aiutaci. Vogliamo una casa nuova, ma Bob non ce la vuole dare. Non è che non ve la voglio dare, è che servono dei mesi. Mesi addirittura, è facile parlare per te che abiti in una casona d'oro. Non è vero. Magari non saranno ricconi come lei, ma pagano onestamente. Sì, ma... Ma io a casa mia quando pago qualcuno mi aspetto qualcosa in cambio, non so voi. Ha proprio ragione, signor Salvini. Non è quello il discorso. Avrete la vostra casa non in mesi, ma in 6 giorni. Cosa? Grazie, signor Salvini. Ma lei ne sa davvero qualcosa di casa, come non detto. Si veste come chi lavora. È così vicino a noi. È impossibile fare una casa in 6 giorni. Guardi, comprendo che a lei piaccia disprezzare le persone bisognose, ma io a casa mia le persone bisognose preferisco aiutarle. Oh, ragionissimo. Ma cosa c'entra? Aiutare i vecchi, i giovani, i medi, i mignoli, le belle donne, quelle simpatiche, quelle così così. Salvini, e quindi... Salvini! A che punto siamo? Per rispettare la nuova tempistica abbiamo saltato dei controlli e ora dobbiamo rifare le fondamenta perché abbiamo scoperto una falda acquifera lì vicino. Dovete rifare tutto? Ancora aspettare? Per questi lavori serve tempo. Sempre la scusa pronta. Sono stanca. Ho sentito che non esistono le falde acquifere. Eccomi, vedo che senza di me non si va avanti. Perché è tutto fermo qui? Abbiamo trovato una falda acquifera e dobbiamo rifare le fondamenta. È da un mese che aspettiamo. I signori hanno ragione, è una vergogna. Ci ha detto lei di saltare i controlli per fare prima. E infatti si va avanti sempre. Ma c'è il rischio che la falda allaghi tutto. Guardi, comprendo che a lei piaccia disfare le cose e tornare indietro, ma io a casa mia, quando comincio una cosa, preferisco portarla a termine. Bisogna sempre finire le cose. Ma... Io sono per concludere le cose. Concludere le strade, i ponti, i laghi, le partite a Monopoli, lo yogurt nei vasetti. E quindi... Salvini! Mi piacerebbe creare un open space con una colonna romanica in mezzo, sarebbe bello. Non è possibile, signore, la colonna non reggerebbe il peso del tetto. Guardi che è bella grossa. Non si fida di mio marito? Non è che non mi fido, ci sono dei dati. E se la pago di più? La paga di più? Voglio la colonna. Sento litigare qui, non litigate, io sono per la pace. Bob dice che mio marito è uno sciocco. Ho solo chiesto di creare un open space con una colonna romanica in mezzo. Tutto qui? Non si può neanche chiedere una cosa? La colonna non reggerebbe il tetto. Questo è un tuo pensiero, lo rispetto, ma io preferisco ascoltare le persone. Ci sono dei dati che... Dati. Guardi, comprendo che a voi, professoroni, piaccia stare lì seduti nei vostri uffici bui a contare i numerini, ma io a casa mia preferisco uscire e parlare con le persone vere. Comodo stare chiusi. Siamo noi le persone vere. Sì, bambina, siamo noi. Ma rischia di crollare tutto. Ma questo lo dice lei. Guardi, io non ho mai fatto una casa in vita mia, eppure non mi è mai crollato nulla. Non posso dire altrettanto di tutti quei muratoroni che hanno fatto degli edifici che poi sono crollati. Parlo delle torri gemelle, delle case dell'Aquila, del ponte Morandi, del ponte Ajax, del muro di Berlino. Salvini, e quindi... Salvini! Finalmente abbiamo una casa, tutto grazie al signor Salvini. Io me ne andrei anche. Oh, ma sta entrando dell'acqua. Perché abbiamo costruito vicino alla falda. Che facciamo adesso? Aiuto, c'è dell'acqua. Non voglio annegare, papà. Nessuno annegherà fino a quando ci sono io. Sapevo che non bisognava costruire vicino alla falda acquifera. Sì, è arrivato il professorone a casa mia con i secoli, ma non si va da nessuna parte. Devo fare tutto io qua, ecco. Ma non si sistema niente mettendo un quadro davanti al buco. Guardi, intanto io sono qui da pochi secondi e ho fatto più di lei. Vedete acqua che esce qui? Va molto meglio, signor Salvini. Ma bisogna uscire a sistemare tutte le strutture. Guardi, capisco che a lei piaccia filosofeggiare sui problemi seduto sul suo divano di pelle di cucciolo di cagnolino. No! Ma io a casa mia i problemi preferisco risolverli. Oh! Bravo! E se lei preferisce avere la casa allagata, sono fatti i suoi. Noi non vogliamo l'acqua. Io, guardi un po', preferisco che l'acqua non mi entri in camera, o in bagno, o in cucina, o nel soggiorno, o in cantina. Salvini ha sbagliato. Succede, sono umano anche io e quindi sbaglio. E voi non sbagliate mai. Bravi, sono contento per voi. A casa mia si dice che solo chi non lavora non sbaglia mai. E qui. Ben vista, ho sempre detto che Salvini è un buon a nulla. Accidenti, mi prude il naso. Forse con un po' di retorica mi passa. Più diritti ai lavoratori, aumento dei salari, aiuti alle famiglie. Ecco. Bellissimo. Io a casa mia. È stupendo. È bellissimo. Chiaramente, oltre, è inutile dire che è tutta realtà. È bellissimo perché poi quando viene l'acqua dal muro, tipo da un buco nel muro, mettono un quadretto, appende il quadretto al muro, che è quello dei Simpson con la barca a vela. Grandi citazioni, vabbè. Grandi così citazioni per grandi personaggi. Certo, per sollazzarti un po' questo inizio di puntata. Ottimo, benissimo, e benissimo. Invece ti riporto subito coi piedi nel fango. Nel fango e nel genere. In questa puntata del genere, sì, io a casa mia dico genere, non dico genere. Che bello. Allora, facciamo un po', no, come dire, un excursus generale su quello che è il genere, la sua storia, la differenza che intercorre anche nella terminologia che utilizziamo. Qualcuno sa qual è la differenza tra gay e omosessuale, per esempio? Perché questo tema? Perché durante l'ACM Meeting, appunto, c'è stato modo di parlare con diversi partecipanti che a nostra insaputa erano dei partecipanti proprio a un sacco di movimenti, assemblee LGBT e trans, e mi hanno spiegato un sacco di cose che io pensavo di sapere, davo per scontato di sapere, invece non sapevo, perché appunto nella mia piattezza da etero uno è sempre portato a pensare di sapere, suppongo etero, è sempre portato di a pensare di sapere le cose, e poi invece alla fine si stupisce che c'è un mondo veramente che vale la pena approfondire e di cui bisogna parlare sicuramente, perché effettivamente la nostra realtà finalmente è anche questa, quindi. Sì, anche se in Italia arriva con molta lentezza, mentre se ci rifacciamo agli altri alle altre parti di emisfero dove qualcosa va un po' più veloce, vabbè, diciamo che abbiamo i nostri tempi, no? Sì, finché abbiamo anche Salvini nella stessa, che si costruisce, certo, le fondamenta. Sai, avere anche il Papa in casa comunque fa. Inutile, è come quando c'hai la nonna in casa che vuoi fare più cose, magari i genitori te lo consentono, però la nonna no, è così. E vabbè, diciamo che noi siamo un pochino lenti, più lenti, siamo le nonne noi. Sì, rispetto a tutto l'Europa e in generale tutto il pianeta siamo un po' lentucci. Però c'è anche chi sta peggio, come non dire questa frase. D'altronde, come dire, a casa mia Oh mamma. Però, bene. Che dire, partiamo con una piccola definizione, quella di genere. Allora, genere, per come lo conosciamo, è una parola piuttosto comune, ma se l'applichiamo a quello che è il discorso di genere, gender, notiamo che è un neologismo che è stato introdotto in realtà nella lingua italiana negli anni 80 con questa accezione, e appunto la parola italiana genere deriva dal corrispondente inglese gender. Un concetto questo che si è sviluppato, quindi quello del gender, a partire dagli anni 60 in area anglo-americana e che designa in realtà, questo è un parametro quasi, no? Il carattere sessuato dell'identità psicologica e di conseguenza anche socioculturale delle persone, dei ruoli nella famiglia, nella società e nelle relazioni che intercorrono tra i sessi. Quindi genere è il significato che assume socialmente che viene assunto socialmente dalle differenze sessuali, che può essere definito come un insieme di caratteristiche, di comportamenti, di caratteristiche, di comportamenti, di norme di condotta. Ma cosa mio? Questo ci ha condizionato tutta la puntata. Insomma, che finiscono. I palazzi non li ho mai costruiti, i generi non li ho mai detti, però in caso mio non mi è mai crollato nessun palazzo addosso. E quindi, insomma, con genere c'è cioè questo significato sociale, no? Che appunto definito hai come detto insieme... no, come l'avrebbe detto no. Lui, no. Oddio. E vai, è andata. No. Che bello. Insomma, un insieme di caratteristiche, comportamenti, norme di condotta che finiscono per essere rispettivamente associati ai maschi e alle femmine e quindi attesi all'interno di una particolare società. Ci si aspetta che la bambina giochi con le bambole, questo è il paragone più banale, e il bambino con le macchinine. Mi sento male. Capito. Infatti molto il dolce male. Forno dell'altro giorno, dell'altra puntata era... Chiaro. E quindi insomma il gender è quello che in altri termini, poi sono diventata la russa a un certo punto, designa i concetti di mascolinità e femminilità intesi proprio come attese sociali e culturali nei confronti, e ci siamo, dell'uomo e della donna o viceversa. E la distinzione però tra le differenze di genere e le differenze sessuali ha un significato decisamente sostanziale perché rimanda a dei presupposti teorici diversi. Quando si fa riferimento alle differenze di sesso, si allude a una distinzione essenzialmente biologica che si fonda sulle caratteristiche anatomiche e fisiologiche degli individui. Quando invece si fa riferimento alle differenze di genere, si sottolinea il fatto che c'è una caratteristica socioculturale che assegna convenzionalmente agli uomini e alle donne dei comportamenti e degli stili riconosciuti come propri di ciascun sesso. Ed è quindi una nozione fondamentalmente che se utilizzata senza, diciamo, il privativo, quindi genere basta, può rasentare anche il concetto di sessismo. Ah, sì. Per cui quello è, cioè nel senso, all'interno del genere è compreso anche il sessismo. Ci sta tutto. Ci sta tutto. Maledizione. Toccherà che si fa? Un pezzo. Partiamo dal fatto che forse è la prima puntata che facciamo con un ventilatore? Con un ventilatore acceso, un puzzo di auto che non ci si sta tra le mura, e quindi abbiamo inaugurato l'estate. La stagione, anche se non è ancora arrivata, ma noi l'abbiamo. Ma noi l'abbiamo ricevuta. L'abbiamo già ricevuta dall'alto. Sì, davvero. Decisamente. Di beatitudine. Sì, è andata. E questo è quanto. E questa gliela dedichiamo. Mercenario del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare. Mare. strade c'è qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente per paura di affogare. Quest'estate ce ne andremo al mare, con la voglia pazza di remare, fare un po' di bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Quest'estate al mare, stile balneare, toglimi i bikini. Ah, la Giuni. Ascoltatevi i Fantastica. Dischi che ha fatto. Non mi ricordo più come si chiamano. Me li ha passati ieri sera un amico, tra l'altro, in chiavetta. Ah, dai. Vedi? Un disco che è quasi new wave, è meraviglioso. Tutto quello che ha fatto è sensazionale. Che ha fatto. Anche quello che poi è diventato molto famoso come questo, comunque ha un che di strepitoso. Troppo brava. La vipera ve lo metto la prossima volta. Sì, è molto bello. Il mio preferito, chiaramente. Però oggi non ci stava. Ve lo tengo per la prossima volta. Dovevamo dare il benvenuto all'estate, o quella che sembrerebbe essere una puntina d'estate. Ecco. Ma per me, se si ferma così, è già anche troppo. Buono. Nel senso, non è che voglio di più. A Firenze può rimanere così. Poi quando andiamo al mare, possono. Quando andiamo al mare, ecco, possiamo. A casa mia non c'è il mare. Aiuto. Insomma, va bene. Vedremo che cosa ha in serbo per noi il fato e anche i meteorologi. Ecco. Quindi arriviamo a questa benedetta nozione di sessismo, che è il neologismo che deriva dall'inglese sexism, a sua volta creato in analogia a racism o razzismo, che nasce negli anni 70, quindi pensate un po' 40 e passa anni fa, negli Stati Uniti. Come per razzismo, che intendiamo sottendere una discriminazione secondo la razza, con il sessismo intendiamo una discriminazione ovviamente secondo il sesso. Ed è un termine questo che indica qualunque arbitraria stereotipizzazione di maschi e femmine in base al sesso, e io riporterei anche in base ai comportamenti giudicati convenzionali al proprio sesso. Ed è una definizione, quella di sessismo, quindi ragionate un po' come al solito con noi a imbuto, no? Partiamo da un macro concetto, dal gender. Sotto il concetto di gender si sviluppa quello di sessismo, e poi abbiamo altre tre nozioni che fanno un po' il cerchio, no? In questa prima puntata di approfondimento su quello che è il vocabolario di genere, che è tre paroline: pregiudizio, stereotipo di genere e discriminazione. Sono parole facili da comprendere, perché il pregiudizio è fondamentalmente un atteggiamento, in quanto tale è composto da altri tre aspetti: una componente affettiva o emozionale, che rappresenta il tipo di emozione collegata, la rabbia, abbiamo degli esempi diciamo piuttosto lampanti in questi periodi che stiamo vivendo, la gioia, l'ansia e anche l'ostilità. una componente cognitiva che comprende quelle che sono le nostre credenze, i nostri pensieri, quindi le cognizioni che compongono poi l'atteggiamento. E infine la componente che potremmo definire più comportamentale, che è collegata alle azioni dell'individuo. Quindi abbiamo quasi come uno schema di De Saussure, abbiamo tre componenti che vanno a formare quello che è un intero comportamento. E il pregiudizio è appunto una componente, come componente emotiva perlomeno, è un atteggiamento ostile e negativo nei confronti di un gruppo basato unicamente sull'appartenenza a quel determinato gruppo. I pregiudizi sono frutto di categorizzazioni sociali e possiamo dire che si basano in realtà sì, sull'appartenenza a un determinato gruppo e di conseguenza all'assorbimento di quelli che sono i dettami e i comportamenti previsti all'interno di questo gruppo. Ovviamente il pregiudizio ha sempre solo ed esclusivamente un'accezione negativa. E i pregiudizi sono frutto di quelle che chiamiamo categorizzazioni sociali. E lo stereotipo, invece, che è una componente anche cognitiva, è un'opinione comune che viene ritenuta valida ed è relativa a caratteristiche e credenze di gruppi e o istituzioni. È spesso semplificata, è una componente rigida che non tiene conto di nessun tipo di differenza, perlomeno individuale. E gli stereotipi sono l'effetto delle più note generalizzazioni. E, per esempio, tra diciamo, la vasta gamma di stereotipi, in questo caso possiamo prendere come esempio la sottocategoria dello stereotipo di genere, che consiste in una visione molto semplificata, in questo caso sempre con accezione negativa e rigida, che attribuisce appunto ruoli determinati e limitati in base al sesso di origine, quindi quello che ci è stato dato come corredo genetico, che non corrisponde poi in realtà al sesso che noi sentiamo, che percepiamo di e quindi l'orientamento è una parola sbagliata, però in base a quello che noi sentiamo di essere nel nostro comportamento, no? E quindi si attribuiscono a donne e uomini ruoli determinati e limitati al loro sesso biologico. E nella scaletta biologico non c'era scritto, ma io lo aggiungerei perché è quello proprio che ci dà un po' la chiave di lettura di tutto il problema. Brava. Il problema di pregiudizio e di discriminazione, ovviamente, e di stereotipo. E infine la discriminazione, appena nominata, che è una componente comportamentale della triade, che è un'azione ingiustificata, negativa, anzi molto spesso dannosa verso i membri di un gruppo, che è semplicemente a causa dell'appartenenza a quel, quel determinato gruppo, se avviene. Ok? Siamo riusciti a costruire un circolo di terminologie, secondo me, abbastanza chiare, che possono permettere anche di argomentare di, le nostre, diciamo, convinzioni, perché io do per scontato, insomma, che chi ci ascolta sia piuttosto sensibile a quella che è la tematica gender. Quindi abbiamo fatto questa puntata proprio per non soltanto da un punto di vista, diciamo, linguistico, come fino ad ora abbiamo fatto, e quindi trattando il significato di alcune parole, il loro uso, ma è anche, secondo me, importante ora approfondire quella che è la connotazione sociale della cosa. Che è. E soprattutto, se non lo siete stati finora e non lo sarete dopo averci ascoltati, non ascoltate più la nostra radio, per siete favore. Siete ufficialmente bannati dalle frequenze di Radio Wombat. Cioè, non ci interessate come pubblico. Ce lo potete puppare, come dice il mio amico. Certo, è chiaro. Si dà per scontato, sì, insomma, dai. E, però devo dire che sono tematiche, al contrario di quanto si possa pensare, se stiamo sempre a screditare i super giovani, sono tematiche che ormai invece sono entrate in pieno, così come quella dell'ambiente, nel... Come quel motto di super giovani. Sì, esatto, nei super giovani. Sì, sì, sì. I giovani, nonostante... Che se ne dica di negativo e di robe brutte, in realtà ormai hanno assimilato queste tematiche e quindi forse avrebbero qualcosa da insegnarci. Ti è rimasta, strano non ti sia rimasto quello di prima. Non ho fatto selezione. Brava. Io ho già in mente quella di dopo. Anzi, vogliamo sentirla subito? Sì. Signora, che ne dice? Oh, signora, ma mai detto signora? Io so che cos'è, ragazzi. Che meraviglia. Pensa che l'altro giorno, dopo una serata brava, mi sono svegliata con questa canzone. C'ero anche io nella serata brava. In testa tutto il giorno, volevo morire. Bene. Andiamo, andiamo, andiamo. Straniera, ma chi sei? Ti vedo in tutti i sogni miei. Da quando t'ho incontrata, così innamorato non sono stato mai. Nella balera aspetterò, un giorno o l'altro arriverai, con il marito, il fidanzato e un uomo sposato che non ti lascia mai. Permette signora, mi guarda da un'ora, vuol dire che stasera si accorta di me. Ha visto che l'una, non amo nessuna, se balla mezz'ora le pago un caffè. Permette signora, mi guarda da un'ora, vuol dire che stasera si accorta di me. Ha visto che l'una, non amo nessuna, se balla mezz'ora le pago un caffè. Le pago un caffè. E la straniera ti lasciai per non morir dei pezzi tuoi. Ho fatto il militare, 3 mesi di mare, pensando sempre a te. E questa sera sono qui, tu puntuale arriverai, con il marito, il fidanzato e l'uomo sposato che non ti lascia mai. Permette signora, mi guarda da un'ora, vuol dir che stasera si accorta di me. Non so, sono audace, ma il rischio mi piace, mi faccia felice, fuggisca con me. E fuggisca con me. E fuggisca con me. E fuggisca con me. Abbiamo trovato il terzo errore più eclatante della storia della musica italiana. Allora, riepilogo. Quello di Celentano qual era? Non me lo ricordo. E il, aspetta. Non me lo ricordo. Era un congiuntivo. Ok, quello di... Oddio, che nervi. Era in azzurro? No, no, no, no, no. Oddio. Dai, l'ho riletto anche oggi. Mannaggia, non me la ricordo. Se... Una carezza in un pugno. Oddio. No, vabbè. No, perché era tutta all'indicativo presente. Era una roba sbagliata. Eh sì. Vabbè, ora mi viene. E Giovanotti. E Giovanotti, sì. Che anche quello, mamma. Vabbè. Se io potessi sarei sempre in vacanza. Brava, bravissima. L'avevamo messo in una, certo, delle nostre... nella primissima puntata della Brusca. Farei sempre in vacanza. Se io fossi capace chiuderei. Oltre, vabbè. E aspettiamo. Anche quello di Celentano era mitico, però ora non ce l'abbiamo sotto mano. Lo dobbiamo cercare? Sì. No. No, sì. Dai. No, sì. La prossima volta. Sì, sono sì. Le no, ore. No, ma tra un po' mi ritorna in mente e poi te lo dico, tranquilla. Me lo dici. Tanto lo sai che il mio telefono è scarico, quindi non posso non googolare. Puoi, ti posso dare il mio. Se vi venisse mai in mente qual è l'errore così eclatante contenuto nel testo di una canzone di Celentano, potete scrivercelo a postawombat@insiberia.net se siete abbastanza veloci. oppure potete scrivercelo via messaggio privato su facebook.com/radio-wombat-firenze, non so chi lo leggerà, ma voi provateci, e anche in twitter.com/radio-wombat-fi. Taggateci chiocciolina, anzi hashtag Radio Wombat, taggateci chiocciolina Radio Wombat Fi, questa cosa non l'aveva mai detta nessuno in 3 anni di radio, perché così noi possiamo vedere un pochettino chi parla di noi e cosa dice cliccando sugli hashtag di Twitter. Proviamo a farlo questo esperimento, perché secondo me potrebbe saltarci fuori qualcosa di molto carino. Ovviamente se ci state ascoltando siamo su wombat.noblogs.org per lo streaming, e invece sulle frequenze 1359 AM della vostra autoradio o della radiolina che state usando in cucina. E qui ci arrivano anche i messaggi. Bene, detti i nostri social, la Nenia è impegnatissima a cercare questa canzone. Perché ho il telefono scarichissimo e quindi è molto buio. Attenzione. Tutto non ha illuminazione. Devo guardare il cellulare perché ho come il sentore che qualcuno ci stia aiutato. Dicendo. No, no, assolutamente no, niente, non posso farmi... No, niente. Peccato, peccato, peccato. Erano gli amici che ci aspettavano al bar, ma noi siamo impegnati a fare la trasmissione. Eccola, eccola, eccola. Ma non vorrei che tu a mezzanotte 3 stai già pensando a un altro uomo. Hai visto, una carezza in un pugno, tutta al presente indicativo. Eccola, eccola. Perché era dire, lei. Stessi già pensando a un altro uomo, era troppo. No. Vabbè. È così. Ma... E non c'erano nemmeno motivazioni, nel senso, se la pensi dal punto di vista sonoro, non c'è un motivo per cui è stata fatta questa cosa. Ci stavano sia l'una che l'altra. Trovi tanto un altro, bene. Sì. Era proprio un famo che così. Però vabbè, oddio. Questo ormai è tardi per parlarne, perché non sono vorrei le 20 che tu a mezzanotte 3 e pensi 37 già a un altro e siamo in diretta di giovedì, mentre se ci state ascoltando di sabato e domenica saranno più o meno le 18:37 di sabato e le 15:37 di domenica, guarda. Proprio se tutto va bene. Per il pisolino pomeridiano, sì, sul divano. Sì, come non dormire alla grande con la brusca nell'orecchio. Che meraviglia. Ma noi vi mandiamo Piero Focaccia se dormite, e fuggisca con noi. Se è ancora vivo, se anche in caso fosse morto, ve lo potremmo mandare ugualmente. Credo sia, non lo so, forse ancora, non mi è mai giunto all'orecchio che fosse morto. Oppure in freezer. Vabbè, dopo questo mi autocensuro, come mi autosuicidio, mi autocensuro, me ne vado. E lascio la parola alla Nina. Come farò ad affrontare questo tema con l'immagine di Piero Focaccia fatto a pezzi in freezer? E vabbè, allora... Ma passano 5 minuti in forno e si rifà la grande. Ho imparato, me l'hanno insegnato da poco, che così alla focaccia bastano 5 minuti. Sì, se no diventa troppo dura, capito? Ma lo sa che io e i fornelli e tutto quello che riguarda la cucina non andiamo tanto d'accordo. Siete grandi amici. Dici tu con un dito ustionato. Allora, dovete sapere, adesso facciamo un po' la rubrica sì, i cazzi sì, nostri. Sì, tutti Dai. I cazzi nostri per sempre. Domenica avevo trovato in frigo delle uova e del latte in procinto di scadere, quindi che cosa ti viene in mente se aggiungi un po' di zucchero e un po' di vaniglia? Il latte alla portoghese, buono, bene. Ho fatto il caramello nella padellina, ci ha messo anche una vita a imbiondirsi, quando l'ho messo nello stampo per appunto il cream caramel, l'ho versato e ho deciso di spalmarlo immediatamente con il dito perché non lo so perché. E quindi io ora ho una fantastica galla grossa come un dito intero. No, dito è l'intero medio. Tasto invio che ti sei attaccato su un dito, esatto. Praticamente. Però è il dito medio. Chiaro. Capito? Quindi è utile. Notevole. Cioè, lo notate anche se non volete, sì, sì, quindi sì. Avete già recepito il messaggio. Bene, chiusa la rubrica i cazzi nostri. Qui scatta, mamma mia. Addentriamoci proprio in profondità nel vocabolario genderbender. Con la prima differenza, vediamo se la sapete. Gay o omosessuale? Due cose. Tenete conto della differenza politica. L'omosessualità è la definizione adottata a livello, diciamo, più psicoscientifico? Perché no? Brr. E anche più legata all'etimo? Perché no? E gay è vero che sta per l'acronimo di Good As You? Chissà. Diciamo che la parola di questa l'origine di questa la parola di questa l'origine di questa parola la radice è derivata da un vocabolo dell'antico occitano, anzi provenzale, gai, si leggeva così, senza il dittongo sulla i. Allegro, gaio, che dà gioia, come lo gai saber, la gaia scienza, che per i trovatori è la scienza d'amore, ovviamente. Come avrei voluto esserci in mezzo ai trovatori. Hai capito. Capito. E che attraverso il francese è passato poi in inglese come gay, con la y, che ha assunto la pronuncia moderna di gay. In questa lingua, quindi nell'inglese, la parola ha acquisito nel corso del Settecento il senso di dissoluto, anticonformista, come in allegro compare. Il significato è peggiorato nell'Ottocento, ma era ancora applicato a entrambi i sessi. Una gay woman era una donnina allegra, cioè una prostituta, mentre una gay house, una casa allegra, era un bordello. E la connotazione omosessuale della parola in questa frase, vediamo che quindi non era ancora presente. La connotazione dell'omosessualità è arrivata nell'inglese americano prima del 1920, anno dal quale iniziano a moltiplicarsi le attestazioni dell'uso del termine gay col significato di omosessuale riferito ai soli uomini e non senza un beffardo parallelo con la gay woman, di cui prima, di cui sopra. E nel gergo della sottocultura statunitense, in cui oggi viene usato anche il sinonimo fagot, che è un'accezione estremamente volgare, quella che in italiano corrisponderebbe alla parola frocio, sì. Che in italiano, un po' per magari cercare di smarcarla come parola, a volte è in uso tra alcuni gruppi di ragazzi gay che non hanno nulla a che vedere con... ditemi se dico una cazzata, correggetemi, però che non hanno nulla a che vedere con il mondo, per esempio, trans, ovviamente, non hanno nulla a che vedere con questo, diciamo, questa ulteriore categoria, perché purtroppo noi oggi stiamo parlando di categorie, no? Nel senso, tra virgolette. Possiamo dire che sono anche linguisticamente sì. Ne è stata fatta una categoria in quel senso, sì, di... Anche solo dire. E quindi nulla, lo usano. Frocio, frocia, se lo dicono. Non è come la parola con la N. La parola con la N? Nego. Ah. Sì, sì, sì, sì. La puoi Nego. Dire? Sì, sì, sì, sì, si può dire. Se lo sei. Ma non se... Ma esattamente, non se non esattamente, esattamente. È una cosa che mi ha spiegato un mio amico questa. Non lo so, a me danno entrambe fastidio, a meno che non siano veramente ricolorate, tipo la rivolta rinfrivolite, esatto, per l'appunto. C'è tutto il giro squirt, esatto, che fa qui assume una, anche certo. una coloritura differente che... Allora sì, però vabbè... Ecco, se lo usano... Da usare sì, con le pinze. Esatto. Però questa cosa mi era venuta in mente perché ho un amico gay che lui si definisce proprio frocio. Ha detto. Sì, questo sì, è certo. Proprio, ma se lo dice lui, a noi ci sta benissimo. Però io non glielo posso dire. Come mi ha spiegato la Nina. No, non è che non si può dire. No, nel senso, secondo me poi anche sensibilità individuale. In generale, chiaro, sono io non glielo state direi. Parole... Per me lui è... gay perché mi ha detto di essere gay e che siamo a cavallo tra due periodi, quello in cui tutto era offensivo punto e basta e quello in cui invece si sta cercando di ridare anche una terminologia senza troppi bacchettonismi. Esatto. Posso usare la parola bacchettonismo? Il bacchettonismo è il neologismo della serata che ci facciamo anche noi perché poi certo. Forse anche per uno zelo di sensibilità, boh, chiamiamola così. Sì, chiaramente è tutto sì, chiaro. L'obiettivo è non ledere nessuno, mantenere sempre un appunto. Massimo rispetto, no, il rispetto fondamentale. Esatto, esatto. E quindi in questo periodo di grande cambiamento, essendo io finalmente soprattutto una generazione indietro rispetto ai grandi cambiamenti, non voglio mai rischiare di sbagliare. Anche io normale, sono lì per cui. Certo, quindi chiaramente lo è. E se abbiamo sbagliato, scrivetecelo, nel senso correggete quello che secondo la vostra sensibilità è stato, diciamo, urtato o comunque non corrisponde effettivamente alla realtà, perché noi ci stiamo basando, certo, comunque su una scaletta scritta. Sì, è tutto molto più complesso. Prima ero molto più shanti nella gestione di tutto ciò. E ora ci si fa. Ora sono un po' è più problematico, perché per me prima, cioè, puttana non era un insulto, perché davo per scontato che comunque dare il proprio corpo fosse un mestiere, volontà, certo, per volontà. Però ho visto sempre tanti dubbi. Oggi per l'appunto ho scartato una canzone che in realtà era adatta e bellissima, però l'ho scartata perché a un certo punto c'era la parola mignota, che tra l'altro non ricordavo fosse proprio questa canzone, e quindi ho deciso, vabbè, siccome proprio oggi si parla di tutto ciò, non so se la metterò, e poi alla fine non l'ho messa, ma magari ci penso la prossima volta. La prossima volta vediamo se. Ma sì, vediamo. E poi faremo la giornata con le parolacce, proprio offese per tutti, gratuite. Eh sì, tutte. Sì, sì, sì. Infatti anche quello è un bel taccuino di informazioni che potrebbero darci. Io mi ricordo una delle primissime puntate di Fuoco alle Polveri, per l'appunto intervennero i ragazzi del giro della Squirt, dove fecero per l'appunto proprio questa presentazione dell'omofobia e sessismo nella terminologia, quindi nelle offese, sì. Quindi come prenderla nel culo, che l'ho presa nel culo, per forza è necessariamente una cosa negativa. Io sto essere cazzuti, di dire. Esatto. Cazzute veramente, sì, sì, certo. Però ecco, sì, facciamoci attenzione anche quando utilizziamo delle sfumature, come per esempio pigliarla in culo, perché effettivamente è un... A parte che lì si dà sempre un'accezione negativa, e poi chiaramente tutti sappiamo 2019. Che non lo è. Cioè, siamo nel senso, 2019, ma ragazzi. Nonostante tutti si sappia che non è un'accezione negativa, però è... Così. Infatti rimando alle primissime puntate di Fuoco alle Polveri, loro che con grande passione, con grande minuzia, scrivono anche nella pagina del podcast tutte la lista dei pezzi. Davvero? Musicali e delle interviste, e vi invito a riascoltare quella intervista. E va bene, andiamo avanti, perché ti faccio perdere un sacco di tempo e mancano pochissimi minuti. Tanto hai visto, la prossima volta si prende la domanda. Sì, chiaro. Abbiamo tantissime cose ancora sulla tecnologia e su tutto quello che ha a che fare con... Bellissimo. No, non possiamo dire... Sì, no, non diciamo niente. Andiamo avanti con questo argomento e boh. Sì, possiamo citare Cary Grant. Perché no? Sorpreso per un malinteso comico in vesti femminili. O meglio... Negli anni 30 il termine gay era però, quindi abbiamo un salto temporale di 10 anni, il termine gay era già compreso dalla massa dei parlanti americani con il senso di omosessuale. E questo lo rivela nel 1938 tale Susanna, nel quale l'attore Cary Grant è stato sorpreso per un malinteso comico, un malinteso comico, come dicevamo prima, in vesti femminili, e a chi gli chiede il perché risponde stizzito: "Because I just went gay all of a sudden", perché sono diventato gay tutto d'un tratto. Why not? Cary Grant era una persona, ci tengo a dirlo, non l'ho mai conosciuto, però ho visto tantissimi film, ho visto un sacco di documentari. Era una persona molto, molto, molto attenta per l'epoca alla tematica gay. Era una persona, tra l'altro era inglese, non era americano, per cui... aveva forse un rapportarsi differente con la società, soprattutto all'interno della grande Hollywood. Era una persona abbastanza diversa rispetto alle altre in senso positivo. Infatti nel mio angolo bar di casa abbiamo... Infatti nel mio angolo di casa, angolo casa bar, mia. Abbiamo la foto di Cary Grant. Oh. Io li odio i ragazzi che hanno fatto quel video, ragazzi. Cioè, no, davvero... Mi stanno trasformando in Salvini, io cerco di avere tutta la vocina. A casa mia! A casa mia, oh! A casa. Il grande salto è avvenuto nel 1900, ovviamente, 69, che fantasia, nell'uso di questo termine, no? Con la nascita negli USA del nuovo e primo movimento di liberazione omosessuale. Oh! Oh! I nuovi militanti rifiutarono i termini usati fin lì come omosessuale e soprattutto omofilo, come open space. Ragazzi, omofilo è veramente una cosa che non si può non soltanto sentire, ma leggere. Cioè io quando l'ho visto ho detto, ma che faccio, lo dico? E insomma, non volendo più essere definiti con le parole usate dagli eterosessuali, giustamente, spesso ingiuriose, la comunità omosessuale scelse di autodefinirsi, come avevano già fatto i neri, come diceva la mia amica Nenia, che avevano rifiutato nigger preferendogli il black, usando quindi un termine del loro stesso gergo, appunto gay. Era nato così il quello che noi in italiano chiameremo il GLF, quindi gay il Gay Liberation Front, GLF. E finalmente, sull'esempio americano, la parola gay si diffuse nel mondo ovunque esistesse un movimento di liberazione omosessuale. Quindi, se tanto mi dà tanto, come mi spiegava nelle cucine dell'Acme Meeting la settimana scorsa questo simpaticissimo ragazzo torinese, la differenza tra omosessuale e gay sono entrambi termini leciti, ma gay ha un'accezione, almeno l'ha avuta fino a un certo momento, di appartenenza a un movimento che, per esempio, può sostenere i diritti delle persone gay. E se sei gay, fai parte di questo movimento, ti autoproclami gay. Però poi mi ha detto che le cose sono cambiate e quindi devo indagare. Ecco. Bisogna stare sempre al passo coi tempi. Guarda. Sì, da questa puntata ne nascono altre due almeno. Sì, sì, anche perché quella sulla tecnologia, che è nata oggi in realtà, però abbiamo esagerato col quantitativo di materiale da darvi, perché eravamo da una settimana in carenza di microfono, quindi rimanderemo alla prossima settimana tutto quello che ha a che fare con le novità, diciamo, con quelle che sono state le novità per l'UNESCO, che improvvisamente si è svegliato, ha detto mi sa che le voci della tecnologia e tutti questi assistenti che parlano dai telefoni sono un po' sessisti. E poi la prima voce genderless che sostituisce un po' tutte queste voci femminili o troppo maschili che ti dicono hai bisogno di un'assistenza dal telefonino, ecco. Quindi di questo si parlerà. Ma vi ricordate? Poi me la potresti cercare la vocina fine della Wind? Wow, quando chiamavate un numero Wind che era staccato, così parla della prima metà degli anni 2000, forse anche un pochino prima, 2002-2003, Wind. Il cliente non l'hai chiamato, non è al momento raggiungibile. La prossima puntata avrai ma non ci posso credere. Tutta un'escalation di sì, Wind. Le cose lì. Un'escalation di vocine di telefonia. Sono incappata oggi per sbaglio in una terribile fotografia di Trump, detto anche Trump, che The lady a tavola Trump con la regina che beve la Coca-Cola, ragazzi. Che bello. E dice che le ha dato anche una pacca sulla spalla. Smontandola. Ragazzi, è proprio... E siamo sicuri sia ancora viva la regina Elisabetta dopo tutto questo? Che orrore. Non ho nessuna stima per la regina Elisabetta, sia chiaro, per carità, Trump nemmeno tutto il sistema di corte, di cenine, di cotillon, e tutto quello che avviene là dentro, per carità. Però questa cosa che Trump si siede e chiede una Coca-Cola da bere mi ha fatto Excuse morire. Excuse me, man, can I have a Coke? Yes, sir. Here you are. Oh, mamma, che orrore. A me è venuto in mente il Gran Galà che c'è, sì, il Gran Galà di una pallottola spuntata. No, vabbè. Con la regina Elisabetta. Potrebbe finire così. Oddio, che orrore. Vabbè, e qui finisce in pessima panni veramente. Mai più un finale così, perché poi i nostri già pochi ascoltatori si ricordano di noi così. Potremmo fare e non è questo che vogliamo. Un'altra trasmissione anche in cui commentiamo la settimana con gli avvenimenti sociali, politici. No, cioè... ultimamente faccio difficoltà. Fai difficoltà. Ecco. E insomma, comunque, la prossima volta parleremo di outing verso coming out, di transgender e binarismo, di... ovviamente, quindi tutta la terminologia M2F, F2M. Chiaro. E del termine, appunto, transgender proprio, che ha, in realtà... un'origine decisamente molto molto molto variegata, ampia, tutto quanto, insomma. Quindi vi consigliamo di sintonizzarvi anche giovedì prossimo sulle frequenze del nostro Wombat 1359 AM o in streaming da wombat.noblogs.org per finire, diciamo, questo bellissimo capitolo estivissimo. E com'è ciò... che vedo ancora il file di Piero Focaccia? Io perché me lo sono tenuto stretto. Quindi ci salutiamo. Ma ci salutiamo perché non possiamo aprire altri argomenti che poi meritano di essere conclusi, ma non abbiamo il tempo. E allora un ciao a tutti con questa cover dedicata a Prog 2974, che è stato ospite nella trasmissione di Slick Chick. Per le cover di Italiani Povera Gente, e questa è una delle mie preferite, oltre a quella che lui ha già usato nella trasmissione così in Slick Chick, e quindi propongo la seconda mia preferita, dedicandola a lui e alla trasmissione Slick Chick, alla Marions. Goodbye. Questa però è un autocover, cioè lei si è autocoverizzata per presentare il pezzo in Italia, sì. Diversamente da altre situazioni. Capito, quando l'Italia contava qualcosa nel panorama musicale. Qualcosa però con la minuscola. Qualcosina. Bene, a giovedì prossimo, saluti e baci, questo saluti è l'ultimo pezzo, ci risentiamo. Ricordiamo, giovedì alle 20 in diretta, e sabato e domenica andatevelo a vedere nel palinsesto nel sito di Radio Wombat e alle 15. Esatto. Ciao, buona settimana. Ritorna al mar dove ho sognato con te e sembra dirmi ciao. Ciao, ciao, rivedo ancora i vecchi amici che ho e mi salutano. Ciao, ciao, e sulla spiaggia limpida non è cambiato niente. Sto qui, il sole è caldo, io ti cerco tra la gente. So che ci sei, ecco, mi hai vista e tu mi vieni incontro correndo e stai sorridendo. Che saluto, Tu non lo sai con quanta ansia aspettai di rivedere te. Ciao, ciao. Ora di te non voglio perdere mai, neanche un attimo. Ciao, ciao, diventeranno facili i baci dell'estate. Passeremo insieme 100 ore innamorate. Ma poi verrà il giorno che partirò alla stazione, verrai la mano tua di te. Ciao, ciao, e un tuo pezzo. giorno che partirò alla stazione verrai la mano.